Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. In particolare negli ultimi anni si sta assistendo ad un crescente afflusso di italiani, una vera e propria trasfusione. Emigrazione è la parola più in voga del momento. Il mio non è un diluvio particolare, il mio è un diluvio sociale, un diluvio generazionale, il mio è un diluvio teatrale. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, esordio in chiave teatrale per la puntata di oggi. Lo facciamo con la pièce L'uomo nel diluvio di Simone Amendola e Valerio Malorni. La presentazione dello spettacolo si chiede amleticamente per trovare una seria possibilità lavorativa e di vita, per cercare di realizzare le proprie ambizioni. I giovani devono fuggire dall'Italia ed emigrare? Oggi la nostra strada verso l'estero ci porterà fino in California per l'ennesima storia di un giovane imprenditore innovativo che nella West Coast ha realizzato le proprie ambizioni. Sarà una puntata, ve lo promettiamo, da non perdere, nella quale ritroveremo in un unicum irripetibile tutti gli ingredienti alla base di Giovani Talenti: imprenditoria, talenti, selezione, innovazione. E attenzione, oggi è l'ultima settimana dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Affrettatevi a partecipare per assicurarvi un viaggio studio a Strasburgo o un biglietto per il padiglione europeo di Expo 2015. Il prossimo sabato chiuderemo in grande stile questa edizione con una puntata speciale dalla sede alsaziana dell'Europarlamento. Restate sintonizzati. La frase della settimana è copyright di Fabiola Gianotti, direttore del CERN. Al CERN l'autorità viene dalle idee e non dai gradi. L'idea brillante di un giovane di 26 anni viene premiata. Tutto funziona per merito. Per la Gianotti abbiamo molte menti eccellenti, poco valorizzate. Abbiamo una storia, maestre che trasmettono il sapere di padre in figlio, ma se i figli se ne vanno all'estero e saltiamo una generazione, poi è difficilissimo recuperare. Per non parlare dello spreco di denaro. Formare uno studente di fisica costa allo Stato 800.000 euro. Se questo ragazzo se ne va all'estero, l'Italia ha una perdita doppia di competenze e di soldi. Che osa amara la Gianotti. Restiamo in tema attrattività, anche se da un punto di vista, diciamo pure, fiscale. Essere attrattivi in tempi di crisi è possibile? Sì, ma meglio non seguire l'esempio italiano. In un paese dell'evasione fiscale monstra, l'unica certezza è che dall'inizio della crisi la tassazione non ha fatto che aumentare e il cuneo fiscale è passato dal 46,6% del 2008 all'attuale 48,2%, uno dei livelli più alti tra i paesi industrializzati. Lo dice l'OCSE. A pagare sono sempre i soliti, lavoratori dipendenti e pensionati. Come attrarre i migliori talenti con una situazione del genere? Tra poco lo chiederemo anche al protagonista della nostra puntata, un giovane imprenditore innovativo che dalla California ha riallacciato i ponti con la penisola aprendo una filiale in Italia. Ci spiega perché. La qualità delle persone in Italia è altissima, i nostri talenti sono veramente i migliori. Dall'altro perché c'è anche una volontà di payback, del rifare qualcosa che abbia una connessione con le origini. Luca Bommassara, 33 anni, è uno startupper basato negli Stati Uniti e ideatore di Gilda, ribattezzata la Google dei talenti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Germania e Svizzera sono i due paesi europei verso cui si dirige la maggior parte dei lavoratori qualificati italiani, mentre Lussemburgo, Belgio e Irlanda esercitano un discreto appeal grazie all'imposizione fiscale più vantaggiosa. La fotografia dei professionisti con la valigia arriva da Michael Page. Ne parliamo con Tommaso Mainini, Managing Director di Michael Page Italia, che amplia in questa intervista gli orizzonti al resto del mondo. I paesi dove gli italiani si spostano più facilmente e mete più gradite a livello europeo sono la Germania e la Svizzera, dettato principalmente da stipendi più alti rispetto a quello del mercato italiano. Uscendo dal panorama europeo, la Cina e quindi il Far East, includendo anche Singapore e altri paesi emergenti in quell'area, sono sicuramente il grosso appeal per tutte le nostre connazionali. Sicuramente anche il Middle East, grazie a una pressione fiscale decisamente più bassa, rimane una delle mete più ricercate dai candidati italiani. Spostandoci oltre oceano, quindi dalla parte delle Americhe, gli Stati Uniti rimangono comunque una delle mete più ambite dai nostri lavoratori e allo stesso tempo nuove realtà nell'ambito dell'America Latina sicuramente stanno diventando sempre più interessanti. Non parlo più solo di Brasile, ma parlo di Messico, Cile, Argentina, Colombia e Perù. Quali sono anche le professioni più richieste all'estero in questo momento? Le professioni più ricercate in Cina sono il quality manager e l'engineering manager, ma anche figure finance. Per quanto concerne invece il Brasile, parliamo di figure sia di finanza e di controllo e anche di figure di tipo legale. Per quanto riguarda invece realtà come il Messico, direttori di operazioni di sviluppo nuovi negozi, quindi parliamo di mondo retail, e figure del mondo digital. Nella vecchia Europa le figure richieste sono sempre le figure principalmente di carattere tecnico-commerciale, ma anche figure di carattere finanziario, come possono essere il Chief Financial Officer. A proposito di paesi dove guardare lavorativamente in vista dei prossimi mondiali di calcio, il Qatar cerca architetti, ingegneri elettrici e meccanici. Paesi che attraggono, secondo la rivista Wired, sono ben 233.000 le richieste per il rilascio di un visto statunitense H-1B destinato a ingegneri ed esperti di tecnologia e record registrato dal Servizio Immigrazione degli Stati Uniti per il 2016. Ancora in tema attrattività, mentre i paesi che attraggono maggiormente gli studenti italiani sono Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, se guardiamo alla capacità di attrazione delle nostre università, scopriamo che nell'anno accademico 2013-14 gli studenti stranieri iscritti nei nostri atenei erano 55.000, attraiamo soprattutto albanesi, rumeni e cinesi. Lo riporta il Sole 24 Ore Scuola, tra gli atenei più attrattivi Roma La Sapienza, Bologna e Torino. Intanto sul fronte italiano, mentre Garanzia Giovani ha raggiunto la quota prevista del bacino di riferimento degli iscritti, l'INPS ha comunicato il forte incremento dei contratti a tempo indeterminato, 268.000 nei primi tre mesi dell'anno, legati agli esoneri contributivi previsti dalla legge di stabilità. Quasi la metà nel solo mese di marzo. Nel complesso, le assunzioni a tempo indeterminato hanno superato le 600.000 nel trimestre. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta, come annunciato, a varcare ancora una volta le porte del più grande laboratorio di innovazione mondiale, la California, e lo facciamo per parlare di selezione e talenti. Nome: Luca. Cognome: Bommassar. Età: 33 anni. Città di origine: Massa Carrara. Studi: laurea in ingegneria informatica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? Finlandia, Germania, Svezia, Stati Uniti. Perché? Perché i confini sono delle convenzioni. Quale lavoro svolgi attualmente? Cofondatore e direttore tecnico di Guild. Dove? San Francisco. Tornerai? Possibile, mai dire mai. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Le note dei Phantom Planet ci proiettano con te in California, Luca, anche perché sei l'incarnazione, lasciacelo dire, di un enorme paradosso. In un paese famoso per cooptazioni, raccomandazioni e per una cronica incapacità di fare selezione, tu sei l'italiano che ha inventato, e tra poco ne parliamo, quella che è già stata ribattezzata come la Google dei talenti. Luca, la tanto auspicata e citata meritocrazia allora esiste? È scientificamente misurabile e implementabile? È possibile creare meritocrazia basandosi sui dati oggettivi. Noi non creiamo meritocrazia, noi creiamo trasparenza nel sistema, noi portiamo dati ai nostri clienti e poi sono i nostri clienti che decidono se fare o non fare meritocrazia. Hai detto poco, trasparenza, parola assolutamente chiave, soprattutto per l'Italia. La tua storia è uno straordinario percorso di vita che si snoda tra Italia, Europa e California. Gli inizi sono però nella tua Toscana, dove ti iscrivi alla laurea magistrale in ingegneria informatica. Quale passione ti porta su questa strada? Io sono sempre stato fin da piccolo un builder, dai Lego all'elettronica, all'informatica. Quindi ero lanciato fin da subito in questa direzione. E anche a te chiediamo, come a tutti i nostri protagonisti, un giudizio sulla qualità dell'insegnamento universitario in Italia. Vale ancora la pena studiare e laurearsi qui, o in un mondo globale è meglio puntare all'estero? Secondo me vale assolutamente la pena laurearsi in Italia. I nostri laureati sono, secondo me, tra i migliori al mondo, i contenuti sono i migliori. Quello che non sappiamo fare è saperci vendere, zero totale, il che è un peccato perché il nostro brand non ci viene riconosciuto. Basta guardare infatti le classifiche proprio delle università, non sappiamo venderci, hai detto bene. Il tuo percorso professionale parte all'estero, al lavoro per quello che solo pochi anni fa era il gigante della telefonia, Nokia. Fai la valigia per la Finlandia, direzione Helsinki, all'interno del progetto di tesi. Allora, quali prospettive ti apre quell'esperienza? Conoscere tantissime culture diverse. Nokia era una cultura internazionale, c'erano indiani, cinesi, un po' di tutto, e questa è una di quelle cose che ti apre la mentalità out of the box. Out of the box, bella espressione, molto Silicon Valley. In Italia torni presto, un anno dopo, per motivi sentimentali, lavorando come ingegnere del software in un'azienda a Pisa. L'esperienza non durò molto, ricordi, appena 12 mesi. Allora, cosa ti ha spinto a rifare le valigie nello specifico? Volevo ritrovare quell'esperienza internazionale. E l'ambiente di lavoro italiano come ti è parso? Non challenging come si poteva trovare nell'esperienza internazionale. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. E l'approdo, questa volta in Germania, colosso Vodafone, dove vieni assunto come lead software engineer. Poiché oggi il tema è selezione, allora ci spieghi come sei stato selezionato? Quanto è stato facile o difficile questo processo di selezione? Molto facile, io non stavo cercando, mi hanno trovato loro tramite dei brevetti che avevo fatto con Nokia e mi hanno invitato a trovarli a Düsseldorf e praticamente mi hanno venduto l'idea di andare a lavorare per loro. Ti hanno attratto, ecco, per usare una bella parola che dovremmo sempre più praticare anche in Italia. E come spesso avviene, a volte nella vita serve essere nel posto giusto al momento giusto. È quello che ti accade. Siamo nel 2007, la vigilia non solo della crisi finanziaria, ma anche dell'esplosione del fenomeno dei mobile social media quali Facebook e Twitter. Il tuo gruppo in Vodafone si occupa proprio di quella nicchia e il primo a esplodere è il tuo team, che in un anno cresce dimensionalmente. Di quante unità? Quasi 350 persone. Ed eravate? Eravamo 5. Beh, questo dà la misura. È proprio in quell'occasione che si accende nella tua testa una lampadina. Noti che in situazioni di stress le risorse umane aziendali si rivelano molto inefficienti. Allora, cosa non funzionava nello specifico? Beh, tutto il processo era totalmente manuale, quindi i recruiter facevano tutto praticamente a mano. Questo significa candidati che vengono persi o che vengono scritti su post-it, nonché arbitrarietà di chi fa i colloqui praticamente. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Luca Bommassar, 33enne startupper italiano in California. Luca vi approda dopo alcune esperienze di lavoro nella penisola e soprattutto in Europa. Il suo background in ingegneria informatica gli fornisce l'ispirazione per avviare una startup, Guild, specializzata nell'individuazione e selezione automatizzata dei talenti per aziende su base meritocratica. In pochi anni Guild è diventata un caso di successo nella Silicon Valley. Riprendiamo allora la scuola. Giovani Talenti. È a quel punto che inizia a ripensare il processo di selezione delle risorse umane, ma con un'ottica da ingegnere. Il tuo obiettivo è portare in azienda non coloro che sulla carta potrebbero, diciamo, andare bene per tale posizione, non loro, ma i più meritevoli, i migliori possibili. Come approcci tecnicamente il problema? Dunque, il processo di selezione è sostanzialmente una storia raccontata dal candidato e da chi fa i colloqui. Quello che noi introduciamo è un terzo punto di vista basato su dati oggettivi. Nel caso specifico eravamo partito da software developer e quindi la capacità di testare quanto questi fossero efficienti, sapesse scrivere buon codice. E a un certo punto, insieme a un tuo collega, ti accorgi che questo problema di selezione non era una peculiarità della tua azienda o del mondo delle telecomunicazioni, ma del mondo aziendale in generale. Lasciate Vodafone e fondate Coderloop, la vostra prima startup, azienda americana ma operata dall'Europa. Cos'era Coderloop? Era una sorta di grosso videogioco del talento, era un modo per sviluppatori di utilizzare questa piattaforma per risolvere problemi di crescente complessità, scrivendo codici e cercando di battere la nostra bot, intelligenza artificiale. E a fine 2010 ha avviato una partnership con Packlabs, azienda con gli stessi obiettivi di fondo ma strumenti più low-tech. Pochi mesi dopo vi fondete e da questo matrimonio nasce Guild. Vogliamo innanzitutto dire quanto avete raccolto nel tempo a livello di finanziamenti come venture capital? A oggi 26 milioni di dollari. Dici poco, per l'Italia è una cifra enorme. Eh sì. E nel frattempo ti trasferisci in California. Com'è stato il tuo impatto personale e professionale con quello straordinario laboratorio di innovazione che è la Silicon Valley? Ultra stimolante. Sabato, ad esempio, era una festa di compleanno e avevo l'opportunità di parlare con ingegneri che lavoravano sull'Apple Watch o le self-driving car di Google. La concentrazione di talenti stimola l'innovazione, la crescita e la modernizzazione di un paese. Non dimentichiamocelo mai. Concentriamoci su Guild. Cos'è? Quale idea e funzionamento stanno alla base del vostro progetto? Guild è sostanzialmente una piattaforma per la gestione della selezione del personale che è basata su intelligenza artificiale. Puoi immaginarti un'esperienza simile ad Amazon, dove fai acquisti e nel tempo Amazon capisce quali sono i prodotti che più ti piacciono e quindi è in grado di raccomandarteli. Guild fa lo stesso, impara dal cliente, capisce che cosa gli piace dal punto di vista di risorse umane ed è in grado di trovare questi specifici talenti del mondo. Domanda solo apparentemente banale, ma ci tengo molto a fartela, Luca. Cos'è per te un talento? Il talento è la capacità di risolvere problemi in maniera totalmente naturale. Come vedi la selezione in Italia? Diversi sondaggi denunciano come siamo un paese dove il lavoro lo si trova spesso e volentieri attraverso intermediari, parenti, amici, santi in paradiso. Siamo ancora nella preistoria o vedi qualcosa finalmente muoversi? Quel che posso posso vedere che la preistoria è un po' ovunque, anche qui in America. Alla fine, per entrare in Facebook devi essere un ex Google, per entrare in Google devi essere un ex Stanford, per avere un contatto col VC devi trovare un amico in comune. Uno dei grandi successi di Guild è appunto la capacità di essere disruptive in un sistema di selezione dei talenti che è preistorico un po' ovunque, non solo in Italia. Però c'è preistoria e preistoria, qui è di fatto cooptazione e familismo, lì quantomeno c'è un'esperienza pregressa, potremmo dire, di valore. Sì, sicuramente, diciamo che sono diversi parametri preistorici. Il problema. Diversi parametri. Il problema fondamentale è lo stesso. Allora Luca, c'è però una nota assolutamente positiva sulla quale vorrei chiudere: la tua personale riconnessione con l'Italia, nella fattispecie con Milano. Qui lavorano 15 persone del tuo staff tecnico di ricerca e sviluppo. Perché, ti chiedo, hai deciso di aprire questo ponte col tuo paese di origine? Da una parte perché la qualità delle persone in Italia è altissima, i nostri talenti sono veramente i migliori. Dall'altro perché c'è anche una volontà di payback, del rifare qualcosa che abbia una connessione con le origini. E meno male che ci pensate voi espatriati a dare appunto questo payback o give back. Mi piace molto questo concetto. Ti faccio la domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire? Dobbiamo sicuramente rifare il nostro brand. C'è un forte pessimismo e dobbiamo riuscire dagli italiani, dall'Italia, a ricredere in noi stessi e a portare dell'ottimismo in quello che sarà il futuro. Ci raggiunge ora in linea Damian Scavo, anche lui startupper italiano in California, fondatore e CEO di Axwave. Buon pomeriggio Damian. Ciao a tutti. Allora, premetto che oggi faccio davvero fatica a considerare questa puntata come normale. Il tasso di innovazione di talenti made in Italy che vi presentiamo è con pochi precedenti. Partiamo dalla fine, dal ponte che voi startupper italiani in California costruite e alimentate con la penisola. Nel tuo caso si è concretizzato con una ONG, Startup Saturday, con la quale aiuti giovani imprenditori innovativi tricolori a creare aziende. Perché hai deciso di aprirla? Startup Saturday rappresenta un'occasione di incontro e di crescita. Mi ero accorto che a tanti talenti mancavano delle basi per iniziare a lavorare a un progetto, e Startup Saturday è quell'occasione per connettersi con persone che ci stanno lavorando sul serio. La tua storia è altrettanto straordinaria, inizia purtroppo con un lutto, a soli 21 anni, la morte di tuo padre che ti lascia sulle spalle un'azienda da gestire. In pochi anni la ristrutturi, chiudi l'attività e a 26 anni apri la prima startup, una trading room. Quindi cofondi una società per la produzione dei primi motocicli a 3-4 ruote che raccoglie 2 milioni di euro in investimenti. La prima domanda che ti faccio è, Damian, quale ecosistema innovativo esiste in Italia per giovani con idee e potenziale? È maturo soprattutto a livello di venture capital? Beh, intanto c'è un'opportunità in Italia che è quella della poca concorrenza, nel senso che le persone che ci provano si trovano ad avere a che fare davvero con poca concorrenza comparato con la Silicon Valley, dove c'è un altissimo tasso di competizione. D'altro canto il sistema dei VC è ancora molto molto giovane, a mio avviso, perché manca ancora un altro ecosistema che è quello delle acquisition. Il vero salto di qualità nel tuo caso arriva 2 anni fa. A Firenze fondi Axwave. Cos'è nello specifico? Qual è l'idea alla base? Axwave è, per usare un termine conosciuto in Italia, un autitel mondiale in grado di misurare quindi il consumo non solo di televisione ma anche di qualsiasi altro fonte media. Rappresenta una grande innovazione perché prima tutte queste misure venivano fatte con macchinari molto vecchi o comunque con tecnologie molto obsolete, mentre questa nostra nuova tecnologia che abbiamo sviluppato appunto tra italiani rappresenta davvero una grande innovazione che ci ha portato rapidamente a essere utilizzate da grandi società quotate in borsa. Perché poi a un certo punto decidi di portare Axwave in Silicon Valley, dopo pochi mesi tra l'altro? Sì, una volta che abbiamo fatto la ricerca e sviluppo iniziale, abbiamo creato il primo prototipo, ci siamo spostati perché abbiamo visto in America il mercato principale per questo tipo di tecnologia e anche perché l'ambiente, appunto le opportunità che si respirano con questa grande concentrazione permettono una grande grande accelerazione. Grazie a Damian Scavo e soprattutto in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. E domanda di rito a Luca Bommassar: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Di buttarsi. Un'esperienza all'estero è una cosa secondo me meravigliosa e che può aprire tantissime orizzonti e opportunità. Ultima puntata e ultimissima occasione per partecipare all'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Quest'anno abbiamo raddoppiato le opportunità che riguardano un totale di 8 ascoltatori tra i 18 e i 40 anni. Per partecipare è necessario inviare da adesso fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. L'ultimo tema, quello di questa settimana, è: indicateci una proposta in 140 caratteri per facilitare il rientro in Italia dei migliori talenti dall'estero e attrarre qui i migliori professionisti stranieri. Quindi a attrazione. Inviateci le vostre proposte in 140 caratteri con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag Giovani Talenti UE. Attenzione, inviate le vostre proposte solo fino alla mezzanotte di domani e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave Europa 2015. Ripeto, Europa 2015. I primi 4 classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo, i classificati dal 5° all'8° posto, 4 biglietti di ingresso al padiglione europeo di Expo 2015 a Milano. Vi ricordo ancora la casella email per partecipare, concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info e contatti e regolamento su radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi parliamo di un sito tutto al femminile, curato da donne italiane espatriate ai 4 angoli del pianeta. Un bel esperimento di narrazione di questa Italia diffusa. Serena Foschi, cofondatrice di Italian Girls on the Road. Eravamo in 4 come cofondatrici, fondamentalmente per sentirci un po' più a casa. Siamo sparse in tutto il mondo e era una nostra esigenza sentirsi e cambiare le nostre vite, anche esperienze in paesi completamente diversi. Non ci siamo mai incontrate personalmente, ma lo faremo presto. Ognuna di voi ha un suo blog, una sua pagina dove racconta le sue esperienze all'estero. Che cosa raccontate soprattutto? Noi scegliamo un tema comune, per esempio, non so, come si festeggia il Natale, oppure anche chi ha figli, l'educazione dei figli nel paese straniero, e poi ci confrontiamo. Siete 11 da quanti paesi e quanti continenti? Dall'Australia, dall'Asia, dall'Europa e dall'America. Perché avete lasciato l'Italia? Per vari motivi. Alcune di noi hanno lasciato l'Italia da single e poi hanno trovato lavoro, altre invece da single sono rimaste single e si sono concentrate sul lavoro, altre hanno messo su famiglia ed alcune con i loro compagni. E qual è lo sguardo che avete da lontano, chi più lontano, chi meno lontano, sull'Italia e su quelle che sono le opportunità per dei giovani in Italia? La nostra visione dell'Italia non è proprio positiva al momento, da quello che ci arriva soprattutto non crediamo di tornare in Italia molto presto. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.itagirlsontheroad.com. Un motivo per restare o tornare. Nonostante la crisi, lavoro che non si trova mal pagato, le tante incertezze legate al futuro e un'ampia sfiducia nelle istituzioni, la maggioranza dei giovani italiani non considera questo il tempo del proprio scontento. Il 72% dei giovani dichiara di essere abbastanza o molto felice. E quanto emerge dall'indagine Rapporto Giovani? Si tratta però di una felicità non ingenua, ma è unita alla consapevolezza della difficile situazione. L'85% dei giovani ritiene che l'Italia offra limitate o scarse possibilità per chi entra oggi nel mercato del lavoro. Tra i net, la percentuale di chi si dichiara felice scende al 59%. Tocca l'80% tra chi studia o lavora. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Giovani Talenti UE. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internettivo, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di maggio. È arrivata la ripresa sul fronte occupazione, la vedete? Se doveste scegliere oggi tra restare in Italia o espatriare, quale sarebbe l'opzione su cui puntereste? E sul fronte della selezione da parte delle aziende, vedete un cambio di passo nella valutazione e risposta ai curricula? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it, vogliamo sapere la vostra. E vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi. Cerchiamo voi, giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24, per una puntata speciale dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.